Thank you. mio nome sa per voi brammate. Dal mio labbro il mio nome ascoltate. Io son l'indoro che fido v'adoro, che sposa vi bramo, che a nome vi chiamo, che a nome vi chiamo. Di voi sempre parlando così, dall'aurora al tramonto del dì, dall'aurora al tramonto del dì. Seguio, caro, de seguì così. Sentite, a che vi pare? Come felice. Da brovo a voi, seguite. L'amoroso e sincero, l'indoro, non può darvi, mia cara, dall'aurora tramonto del dì, dall'aurora tramonto del dì. L'amorosa e sincera così. Thank you. La da.